prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. In questa puntata torniamo su un argomento che già avevamo sviluppato ad ottobre, ma siamo in periodo di cambio di stagione, almeno teoricamente una primavera piuttosto fredda e piuttosto bagnata, però prima o poi arriverà il caldo e arriverà il tempo di fare il cosiddetto cambio degli armadi. Allora parliamo anche oggi di abiti usati. Sappiamo che la raccolta indumenti viene proposta da diverse organizzazioni, da diverse realtà. Noi ovviamente vi suggeriamo quella proposta dalla Caritas a livello nazionale. Con i cassonetti gialli sono stati i primi, poi altre associazioni hanno utilizzato lo stesso colore, una tinta molto simile appunto per la raccolta indumenti. Sono presenti in diverse città, paesi, anche vicino alle parrocchie, però spesso molti si domandano che fine fanno veramente quegli abiti, se veramente vanno alle persone che ne hanno bisogno o direttamente o indirettamente. Il percorso parte appunto dalla donazione gratuita, quindi dovrebbe essere la nostra mano destra che dona, che non sa che cosa fa la sinistra o viceversa. Una volta che si decide di donare, piuttosto che di buttare appunto magari nei rifiuti gli abiti, non dovremmo pensarci, non dovremmo farci certe domande. Però è sempre bene spiegare perché il percorso appunto attivato sui e dentro i cassonetti della Caritas sviluppa lungo il percorso delle dinamiche spesso sconosciute che generano valore e anche valore economico. Partiamo dalla legge, la normativa ambientale, che prevede che anche gli indumenti siano considerati rifiuti. Vestiti, capelli, borse, sciarpe, biancheria, coperte, anche le tende. Sono gli enti pubblici appunto che decidono a chi affidare lo smaltimento dei rifiuti. Poi ci sono le società che gestiscono i servizi di igiene ambientale per conto dei comuni e in terzo luogo le cooperative sociali che gestiscono il servizio di raccolta e recupero tramite accordi con le società oppure direttamente con i comuni. Caritas Padova fa parte di un gruppo di cooperative che attraverso accordi con ETRA, Acegas APS, Veritas, Padova 3 o direttamente con i comuni gestiscono appunto la raccolta degli indumenti nel territorio diocesano. Queste cooperative destinano una parte dei proventi che derivano dalla raccolta per realizzare alcuni progetti proprio di Caritas Padova. Le cooperative sociali sono Il Grillo, Città Solare, Monterico, Bartolomeo Ferracina e Insieme. Sono 5 realtà. Qual è la strada? Da qual è il percorso dei vestiti che decidiamo di buttare via? Vengono conferiti nei cassonetti gialli dove c'è scritto Caritas e dove c'è scritto questo servizio sostiene i progetti di Caritas Padova. Gli indumenti vengono prelevati dai cassonetti, portati nei centri di stoccaggio delle cooperative coinvolte, le 5 che ho citato prima, e poi vengono venduti a società che operano nel settore selezionati in appositi impianti autorizzati. Appunto, poi che fine fanno i nostri vestiti di cui decidiamo di liberarci? Il 68%, più di due terzi, viene destinato al riutilizzo, il 25% è sottoposto al riciclaggio delle materie prime, il 7% viene smaltito completamente perché non più utilizzabile in nessun modo, appunto, né come reimpiego, come abito, né come riciclo di materiale. C'è un sito internet molto semplice, www.chefinefanno.it, dove trovate anche per tutti i comuni o quasi della diocesi di Padova l'elenco con il riferimento della cooperativa appunto che per quel territorio comunale si occupa appunto della raccolta e del conferimento di questi particolari rifiuti. Sono molte le tonnellate di abiti raccolti, si genera solidarietà perché appunto una parte dei proventi è destinata alla Caritas che la utilizza per finanziare il fondo straordinario di solidarietà, ne abbiamo parlato più volte, per sostenere e dare opportunità occupazionali a chi è disoccupato senza ammortizzatori sociali. Ha un risvolto ambientale perché il CONAU, il Consorzio Nazionale Abiti e Accessori Usati, stima in circa 14 kg a testa all'anno il consumo di abiti e accessori in Italia. Come raccolta differenziata arriviamo a circa 1,5 kg a testa all'anno, però siamo sotto la media europea. Con un solo chilo di abiti usati e riciclati si riduce l'emissione di CO2 di 3,6 kg, si risparmiano 6.000 litri di acqua, si evita l'utilizzo di fertilizzanti e anche di pesticidi. E poi si genera lavoro, perché la raccolta è un'opportunità per persone che hanno difficoltà ad accedere al mercato del lavoro, e le cooperative sociali che fanno la raccolta curano al loro interno l'inserimento lavorativo di persone in situazione di fragilità sociale. Donare dunque gli indumenti contribuisce ad alimentare questo sistema, che dà anche un sostegno economico a centinaia di persone in tutto il territorio. Ricordo il sito chefinefanno.it con tutti i riferimenti e altri materiali per saperne di più sulla raccolta degli abiti usati. Avete ascoltato Prossimo Tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.